Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Pole position, giro veloce, gara sempre in testa. Nico Rosberg vince il Gran Premio d'Europa. Quinta vittoria stagionale per Nico Rosberg, che allunga in classifica mondiale. Là dietro arriva una Ferrari che ha fatto comunque una grande gara, chiudendo in seconda posizione. Tra poco eccolo che arriva, Sebastian Vettel secondo, si rilancia anche lui nel mondiale avvicinandosi a Lewis Hamilton. Sebastian ha fatto un lavoro incredibile oggi, veramente chapeau. Dobbiamo dargli la macchina adatta per vincere, questo lo sa anche Maurizio. Quando ci continuiamo a lavorare, se avesse avuto una macchina alla pari della Mercedes l'avrebbe fatto fuori. Va centralmente il sinistro, scheggia l'incrocio dei pali, palla fuori. 20 minuti spettacolari di Paul Pogba. La qualità del gioco, sì, anche noi tutti vogliamo una qualità di gioco migliore, però alla fine quello che conta è la vittoria. Ma adesso le cose serie iniziano fra una settimana. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Iguodala che prende velocità, schiaccia per terra, corre per lui, arriva! Incredibile! Arriva incredibile, si oscura la vallata. LeBron James è la Gioconda, non è una stoppata. Finisce i Cleveland Cavaliers sono campioni NBA per il 2016. LeBron James MVP. In rigoroso ordine cronologico, la spremuta degli eventi del weekend. Giorgio De Luca, nostro autore, ha deciso così. Gianmarco Ferronato in regia l'ho aiutato e Federico Bini in redazione pure. Ciao Giovanni Capuano, direttamente Ciao. Dallo scrano della domenica. Direttamente lì, subito una domanda per gli amici a casa. Chi Quale? Era sveglio alle 4:17 a vedere la Gioconda? Presente. Io no. Presente. Andrea, stia lì, se non parlate nemmeno oggi di LeBron James e del titolo di Cleveland, giuro che non vi ascolto più. Continui ad ascoltarci naturalmente, perché ne parleremo, è uno degli argomenti in scaletta. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene, fatto bene. Tardissimo, dormito zero, ma ne valeva la pena per il titolo di Cleveland. Sì. Non voglio fare il figo, ma cioè, no, si sta riprendendo perché ieri gli hanno ricordato il suo pronostico sulla Spagna, no? Sì, sulla Spagna. Io vedo male la Spagna, 6 punti, 4 gol fatti, 0 subiti. Ne indovino uno a lustro. No, ma ieri c'era un amico che avrà scritto 100 volte questo SMS e ha detto: io vado avanti a scriverlo finché non lo leggete. Alla fine ne indovino citato, uno a lustro. Una volta l'ha presa uno anche lui. Ogni quinquennio ne indovino. Però, sai, io ho semplicemente seguito Gallinari, Bargnani, Bellinelli, D'Atome, che sono stati i nostri ospiti nei giorni precedenti, e tutti hanno detto la stessa cosa. Prima ancora della finale, la finale sarà questa e vincerà Cleveland. Poi ne parliamo. Argomento europei. Ieri l'Albania ha riacceso un piccolo sogno vincendo 1-0 con la Romania. Molto difficile il passaggio del turno, dipende da un cunicolo da un intricato cunicolo di combinazioni, ma facciamo il tifo per Gianni De Biasi, naturalmente, che contiamo di avere anche oggi nostro ospite, dopo che l'abbiamo sentito l'altro giorno dopo la sconfitta con la Francia. Adesso vorremmo sentirlo dopo una vittoria. La Francia 0-0 contro la Svizzera in una partita non bella, devo dire la verità, una delle peggiori di questo europeo, che ricorderemo per quel pallone scoppiato tra i piedi di Berami dopo un contrasto e per le ben 7 magliette strappate durante questa partita. Cosa ha detto Shaqiri, Pierluigi Pardo? Ha detto una cosa condivisibile, cioè che si augura che lo sponsor tecnico non produca anche preservativi, perché si rompono tutte le maglie, quindi insomma, sai, finché devi ricomprare la maglia, le conseguenze sono poche, ma... Spero che non producano anche quelle altre cose. Questa forse è la battuta migliore dell'europeo fin qui. Palma d'oro al comico Shaqiri. Ma agli europei è successa anche un'altra cosa curiosa, che è stata documentata dalle telecamere di Sky, questa. Italiano, quindi ha strappato un buon voto Pogba dall'equipe, ma ha strappato mentre avete c'è visto stato un inseguimento qui della polizia. Sì, sì. Uno scippo, credo. Sì, c'è uno scippo anche qui. Sì, viene, gira. L'hanno preso? Nulla di preoccupante, ragazzi, tutto a posto. Sì, sì, l'hanno preso. La situazione è sotto controllo. Allora, Angelo Mangiante sul lungo Senna, per chi non ha visto le immagini, sta parlando delle sue cose e si vede un borseggiatore che corre dietro di lui, inseguito, è stato acciuffato, afferrato, arrestato. Quindi possiamo dire che è tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Da qui in poi l'europeo sarà la massima sicurezza. Infatti aspettiamo. Ci sono stati 10 giorni di rodaggio, ma finalmente la polizia francese. Capuano, aspettiamo Russia-Galles questa sera, poi te lo dico. Aspettiamo Russia-Galles questa sera. Grandi preoccupazioni naturalmente per questa partita, ma c'è questo girone abbastanza irrisolvibile. Pardo, ma tu che hai fatto 1000 mondiali e 2000 europei in tutti i posti più pericolosi del mondo, compresi i peggiori bar di Caracas, hai mai visto una roba del genere? Sì, una roba del genere a livello di hooligans. No, a livello di scippo. Ma chi se ne frega di scippo? Oggi no, scippo. Io ho avuto uno a Parigi che mi insultava e mi faceva i gestacci mentre mi collegavo il giorno della finale di Berlino. Ma no, grandi scippi, grandi situazioni complicate. Sei sempre stato attento. Ad Atene ci sono quelli del Liverpool che mi hanno sollevato così perché praticamente. Grandi casini no, ma io sono grosso comunque, quindi sì. Capisci? E poi la mamma giustamente quasi, raccomanda di stare attento e tu sei ubbidiente. No, devo dire che la cosa molto divertente era tutta una serie di precauzioni che ci avevano fatto prima della Confederation Cup e dei mondiali in Sudafrica, che facevano alcune anche abbastanza ridere, tipo se c'è un incendio scappate, quelle cose lì, tipo portatevi fuori dalla zona di pericolo, indicazioni così. E poi in realtà invece io del Sudafrica ho un ricordo veramente meraviglioso di una tranquillità, forse che anche in Europa ci sogniamo. Magari sono stato fortunato io, perché so benissimo che poi se vai nelle township, quelle complicate, può essere... Può essere difficile in quelle zone lì, però applausi a Mangiante, che è stato veramente una plomb. Una plomb, veramente. Questo ancora quasi non se ne è tutto a posto. Ha fatto la telecronaca del ferro. È stato fermato uno scippo. Ecco la polizia che interviene. E dunque, dicevamo così proprio. Fenomeno. Allora ragazzi, vi invito tutti 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, per messaggi e WhatsApp. Ci fermiamo per il traffico e poi entriamo in argomento europei. Tutti convocati. Tutti convocati. Demushai chiama la palla lunga, Sadiku. Parte Sadiku di testa, 1-0, Albania in vantaggio con Sadiku. Albania in vantaggio con Sadiku. È finita, ha vinto l'Albania. Complimenti a Gianni De Biasi e ai suoi giocatori che conquistano una vittoria storica. Sì, l'Albania una vittoria storica ieri sera, quindi 3 punti in classifica, vittoria contro la Romania. Difficile che possano bastare questi 3 punti, no Giovanni? Perché ma dipende da un sacco di fattori. Dipende da tanti fattori, una mano gliela possiamo dare anche noi dell'Italia, ad vincendo esempio, contro l'Irlanda e la Svezia. Non perdendo contro l'Irlanda, con, perché se l'Irlanda fa un punto e con va due, il Belgio che fuori. Batte la Svezia. E con il Belgio che non perde con la Svezia, e quindi almeno in un girone nessuno arriva a quella quota 3 punti. Il problema di De Biasi è che ha -2 come differenza reti, che non è una buona differenza rete, che è il secondo parametro dopo i punti conquistati. Però chiediamolo a lui, chiediamolo a lui facendogli i complimenti. Ciao Gianni. Ciao a tutti, grazie ancora. Hai già telefonato ad Antonio? Sì. Non ho telefonato, no. No, assolutamente. Senti, la torta di compleanno che era stata amara, ci siamo sentiti l'altro giorno, ci siamo dimenticati di farti gli auguri in diretta, ma poi li abbiamo fatti in differita, cioè in tua contumacia. Sono contento. Quella torta è stata amara questa volta. Questa volta invece una grande vittoria, è un grande europeo per l'Albania, dai Gianni. Comunque sì, vada. Io credo di sì, perché abbiamo fatto tre prestazioni molto buone, sia con la Svizzera che con la Francia, anche se lì il risultato non è arrivato. Però, ironia della sorte, abbiamo avuto molte più occasioni per far gol in quelle due partite rispetto a ieri sera. Ieri sera abbiamo fatto una partita di grande attenzione e dovevamo vincere assolutamente per avere ancora qualche speranza. Io credo che adesso dobbiamo soltanto aspettare i risultati degli altri e poi accettare quello che sarà il verdetto del campo. Sì, avete comunque fatto, Pierluigi, sarai d'accordo, no? Quando comunque vada, l'Albania ha fatto il 110% di quello che poteva. Guarda, io l'ho vista tutte e tre, sono anch'io. Anche per motivi, diciamo, di simpatia e di tifo, ma credo di non essere partigiano nel dire che hanno giocato bene. E se c'è una sola cosa che possono rimproverarsi è quella di non aver approfittato delle varie occasioni prodotte nelle prime due partite. Anche perché, onestamente, sarebbe, adesso non voglio mettere il dito nella piaga, sarebbe passato un punto in più per partire la qualificazione. Invece così bisogna sperare. Però ecco, quello che voglio chiedere al mister è se, partendo dal presupposto, facendo le scaramanzie, questa qualificazione arrivi, a me sembra che questa squadra se la giochi con tutti. Cioè, in questo è abbastanza simile all'Italia, nel senso è una squadra che magari non segna molto, ma è una squadra molto ben inquadrata. Quindi vi candidereste in caso a Mina Vagante? Sì, volentieri, Pier, anche perché io credo che noi abbiamo pagato un po' lo scotto del noviziato nelle prime due gare. Abbiamo un po' sentito troppo la pressione attorno a noi e credo che ieri sera un po' ci siamo liberati di questo peso che ci ha condizionato nelle prime due partite. Seppur, giustamente, come dicevi tu, dove abbiamo fatto, secondo me, rispetto all'avversario che avevamo di fronte, al valore tecnico dei nostri rivali, sicuramente delle prestazioni di ottimo livello. Non abbiamo concretizzato nel calcio quando non concretizzi. Alla fine vai a pagare dazi pesanti e noi le penne nelle prime due partite. Però credo che questi tre punti potrebbero anche bastarci per passare magari alla seconda fase. Tra l'altro io voglio fare un'annotazione. In tanti se la sono presa con questa formula 24 squadre, dicendo che portava dentro nazionali che non sarebbero mai state dentro un europeo come lo intendiamo dal punto di vista tradizionale. Poi tu guardi le debuttanti, cioè l'Albania che si sta giocando la qualificazione, il Galles che si sta giocando la qualificazione, l'Irlanda del Nord che oggi sarebbe qualificata, l'Islanda che sarebbe qualificata, ha deluso forse l'Austria, c'è la Slovacchia che comunque non dimentichiamo è al primo europeo inteso come Slovacchia, che in questo momento sarebbe qualificata. Quindi io credo che quando si dice che questo è europeo, e vorrei sapere cosa ne pensa De Biasi, è livellato verso il basso, si compie un errore di prospettiva. Assolutamente, anche secondo me. Ma poi questa formula del passaggio delle quattro migliori terze, secondo me non fa altro che aggiungere interesse a questo torneo, Gianni. Sì, sono d'accordo. Io credo che oggi il calcio ci sia un livellamento a livello generale molto molto sottile, quindi le differenze sono veramente poche, le fanno i grandi calciatori e li fanno magari episodi per le squadre che sono collaudate. Le piccole hanno il fattore sorpresa, l'entusiasmo, tutti questi aspetti che, sui quali dobbiamo lavorare noi allenatori per dare qualcosa in più che ci manca magari dal punto di vista tecnico. Onestamente, che impressione ti ha fatto la Francia? La Francia mi ha fatto una buona impressione dal punto di vista perché ha dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma come organizzazione, gioco insieme, secondo me lascia delle opportunità agli altri. Noi abbiamo avuto delle opportunità con loro, siamo una squadra piccola e per una squadra come loro dovrebbero probabilmente avere un'organizzazione sia in fase difensiva sulle palline attive che quando ripiegano diverse, però ci vuole coinvolgimento, ci vuole pensare da squadra, spesso e volentieri le grandi squadre sono formate da giocatori che difficilmente si sposano e mettono a disposizione quello che hanno per il Ma non hai l'idea, non ti dà l'impressione che sia una squadra che sia la favorita numero uno? Adesso possiamo dirlo, l'abbiamo vista per tre partite, anche ieri sera ha regalato occasioni alla Svizzera, sì. L'aveva fatto con la Romania, aveva rischiato, no, con l'Albania, ricordiamo anche sullo 0-0 aveva rischiato. Quel palo trema ancora. No, è una squadra che concede molto, l'ho detto prima, e secondo me non è squadra, questo è il problema principale. Probabilmente la Francia da anni ha dei grandi talenti, dei grandi giocatori, in proporzione a quelle che sono le sue possibilità, non riesce mai a coagulare un nucleo di giocatori che insieme ragionano da squadra, ragionano con il pronome personale noi. Credo che spesso e volentieri ci sia sempre l'io davanti a tanti aspetti, sì. anche a alcune fasi di gioco. Sì. Lascio l'ultima domanda a Pardo per Gianni De Biasi. Su chi fai la corsa? Vabbè, il nostro girone è sicuro, dai, no? No, sì, sul vostro sicuramente sì, sul nostro, anzi sul vostro nostro. Sicuramente sperando che anche nell'altro girone, quello dell'Austria, magari ci siano risultati che si possono dare una mano. Tanto noi non possiamo fare niente, siamo qui e guardiamo. Sì, anche Turchia e Repubblica Ceca, eh? Anche Turchia e Repubblica Ceca. Anche quello. Che poi non è vero che non puoi fare niente, 3-3-5, il resto lo sai, chiami Antonio e magari... Bella, non è male. Ci sono margini mandami di crescita? Mandami il numero che non ce l'ho, dai. Dopo okay, te lo mandiamo subito. Ci sono margini di crescita per questa nazionale, Gianni? Non ti ho sentito, scusa? Ci sono margini di crescita per l'Albania? Quanti margini di crescita ci sono per l'Albania? Sì, io credo sì, già anche in questo torneo. Io sono convinto che se riuscissimo ad andare avanti anche la prossima partita sarebbe una partita per noi, probabilmente potrebbe essere per la Germania, una partita che ce la giochiamo, come diceva certo. Giustamente Pardo, mi sembra, non è che ho qualcun altro di voi, adesso non ricordo, partiamo come vittime designate, anche se il pronostico dice questo. Il campo poi può dire cose completamente diverse, ma noi abbiamo consapevolezza in quelli che sono i nostri mezzi, che magari non sono tantissimi, ma proprio la capacità di conoscere quelli che sono i nostri limiti, costa la nostra forza. Grazie Gianni, in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Buon lavoro, grazie Gianni Biasi, CT dell'Albania. Ferdinando, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Buongiorno. Salve, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Io vado via col camion e siete sempre la prima cosa bravissimo. Che faccio quando salgo sul camion. E accendere Radio 24, bravissimo. Dica. Ascolta, io volevo intervenire riguardo la nostra Italia. E io sono rimasto sorpreso perché avrei puntato tanto sulla Germania, sulla Francia e sulla Spagna. Però, non so, vedo questa Italia e mi emoziona ogni volta che la guardo perché... Non so come, ho grande fiducia sul nostro gruppo, su uh-huh. questi giovani, hanno voglia di riscattarsi. Dei giovani neanche tanto, siamo abbastanza una banda di vecchietti, ma comunque spirito. Giovani dentro. Giovani dentro. Senta, ma lei la mette la maglietta azzurra, perché è stata uno dei tormentoni di e sarà uno dei tormentoni dei ho prossimi messo, giorni. Ho messo la bandiera fuori, la prima cosa che ho fatto il giorno della bandiera. Repubblica. Mm. Il 2 giugno e da lì ne ho aggiunto un'altra dopo il giorno che l'Italia ha vinto la prima partita, quindi doppia bandiera. Sì ma anche, sul camion non manca mai. Ma la maglietta azzurra non la mette, non dare non riesco conte. Perché non trovo la taglia mica è necessario, lo dicevo mica anche si strappano ieri. No, si strappano, non sono quelle della Svizzera, si strappano, no dai, si strappano, si strappano tra palloni si strappano. No, ma si può anche prendere, dicevo ieri, una maglia del colore del cielo da 5 euro, non è mica necessario, stiamo facendo del marketing, del merchandising, eccetera, anche se è in aumento la richiesta delle magliette azzurre. Pardo ce l'ha già, quante ne hai, 2 o 3? No, io ce n'ho una, ma è stretta, no? Proprio dovrei perdere 20 kg e mi sembra abbastanza improbabile da qui a mercoledì, però insomma no, va bene, abbiamo parlato anche un po' ieri. Io penso che sia una, per chi va allo stadio, poi a casa chiaramente lì il discorso è per i tifosi italiani che vanno allo stadio, che già siamo di meno quasi sempre degli avversari, se in più ci vestiamo ognuno come gli pare, l'effetto cromatico è nettamente inferiore rispetto ai muri che vediamo, ma è una cosa che ha detto Conte secondo me per rinfocolare il senso di patria, il senso di identità, di passione di questo paese, che chiaramente poi dovremmo esprimere in mille cose più importanti della vita, però poi ci sta anche durante le partite di calcio in una manifestazione come l'europeo. Io sono favorevole, te l'ho detto, perché insomma sì. non mi sembrano dei sudditi, non mi sembrano dei servi sciocchi quelli svedesi o i portoghesi un po' meno, ma insomma gli irlandesi che ti vedi tutti vestiti uguali, mi sembra invece una dimostrazione di amore puro, insomma, e quindi io sì. Idealmente mi unisco e mi vesto d'azzurro. Allora, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito dopo, ci sono tanti temi da approfondire e sull'Italia e su questo europeo, perché ci sono un sacco di cose che almeno personalmente mi incuriosiscono, cioè tra le quali la crisi dei grandi attaccanti che non strusciano pallone, tra le quali tutti quei gol, quella grandinata di gol negli ultimi istanti delle partite, non può essere un fatto casuale. Poi ovviamente si tratta di capire come sta l'Italia oggi, tra poco ci saranno le conferenze stampa, possiamo discutere sul fatto che quella italiana sia la miglior difesa dell'europeo e secondo me sì, e mille altre cose. Borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Si ricomincia! Tutti convocati. Presidio sempre Maradona su un dribbling. Se va, sempre 3, sempre Diego. Genial, genial, genial. Tocco para Valdano. Entra Maradona, falta el 3, intenta Lucio Pano. ¡Gol! Sembra ieri e sono già 30 anni. Sono già 30 anni, signori miei, 30 anni dal gol, dalla mano de Dios e da uno dei gol più belli della storia del calcio, da quell'indimenticabile Argentina Inghilterra. Il barilette cosmico. Il barilette cosmico. 30, come 30 fu raccontato, 30 anni. 30 anni e l'altra notte è diventato uno dei tanti gol della nazionale argentina che ha un nuovo, avrà presto, ma insomma sì, un nuovo capocannoniere. L'altra notte storico. Ha un nuovo capocannoniere storico che è Messi. Sì. Pierluigi, cosa facevi quella notte mentre Maradona segnava con la mano, te lo ricordi? Guardavo la partita. Guardavi la partita? Sì, ho dei ricordi molto precisi del Mondiale 86. Questa cosa adesso che mi ha ricordato che sono passati 30 anni mi fa anche un pochino rodere, vabbè, comunque. Si può fare nulla, ma c'è, cioè, va bene, già che siamo qua, mi sembra positivo. Grazie perché l'avete visto, io non ero ancora nato. Sì, come no. Come no. Senti, invece parlando dell'Italia, prima io e Giovanni stavamo facendo i calcoli, conti, tabelle, lui è bravissimo in questo, stavamo facendo tabelle per l'Albania di De Biasi, ma anche tabelle per l'Italia. C'è grandissimo entusiasmo, qualcuno dice forse troppo intorno alla nazionale, siete d'accordo? Lo chiedo anche agli ascoltatori, 800240024, può essere controproducente a questo punto? Sì, anche se poi penso che Conte sia bravo a mantenere il giusto livello di concentrazione, c'è assolutamente troppo entusiasmo, così come prima c'era troppo scetticismo, un po' perché vabbè, questa è una caratteristica di noi italiani che insomma si cambia un po' anche delle competizioni brevi, no? È chiaro che il risultato fa opinione, poi noi italiani ce l'abbiamo nel DNA questo fatto di cambiare spesso opinione a seconda dei risultati. In più c'è anche da dire che l'atteggiamento complessivo di questa squadra è tale che, come hanno dimostrato le due partite, possa mettere in difficoltà grandi squadre come il Belgio e possa giocare Maluccio, perché Maluccio abbiamo giocato contro la Svezia, non è che adesso il gol di Eder. No, Maluccio, sì, non è che la Francia, ad esempio, contro l'Albania o ieri sera l'abbia impressionato. Sì, però voglio dire, l'entusiasmo che c'è in questo momento, criticato e al quale mi unisco anche, deriva dal fatto che abbiamo trovato il gol in una delle rarissime occasioni prodotte. Se fosse finita 0-0 Italia-Svezia, adesso ci sarebbe un altro clima attorno alla nazionale, questo non ci sono dubbi. Quindi, tornando alla tua domanda, secondo me sì, c'è un eccesso di entusiasmo, però sono tranquillo perché Conte è maestro nella gestione di questo tipo di situazioni. Nello spegnere il fuoco eccessivo. Beppe Bergomi, ciao zio! Ciao. Carlo, ciao Pier, ciao. Come va? Dove sei? Sono tornato dalla Francia, ma domani riparto. Ah sì, e vado a Lilla, ogni tanto facciamo avanti e indietro. Toccate e fuga, precalata ormai, a cambiare la valigia. Ma Pier, sono tornato da Tolosa, immagini, 920 km. Beh, fantastico. Nel frattempo ti sei fermato a vedere la finale NBA, la verità. No, quella non l'ho vista, però sono risultato e sono felice, perché facevo tipo per Cleveland e quindi sono felice, ma la rivedrò. Sì, anche noi siamo felici per il terzo anello di LeBron James. Senti, c'è troppo entusiasmo secondo te intorno a questa nazionale? Quello che ho chiesto a Pardo, lui dice sì, però Conte è bravo a fare il pompiere. Ma noi ricercavamo l'entusiasmo ed è giusto così. Guarda, io vivo, faccio la telecronaca, sono lì a contatto con loro, e se voi guardate anche quando c'è l'inno nazionale, come si abbracciano in panchina, che tu li vedi, non sono uno in fila all'altro, ma sono proprio ammucchiati. Questo fa vedere veramente, ti fa capire che gruppo c'è, che entusiasmo c'è, che obiettivo hanno da raggiungere. Quello che Conte, dicevo prima, che secondo me è il vero leader assoluto di questa nazionale, è riuscito a trasmettere. Quindi questo entusiasmo ce l'abbiamo e sappiamo anche, secondo me, dobbiamo incanalarlo bene. I prossimi avversari sicuramente saranno magari più complicati, non parlo dell'Irlanda, ma se dovesse essere la Croazia o la Spagna o la Repubblica Ceca, ma saremo pronti per affrontarli nella maniera giusta. Questo entusiasmo ci fa anche bene. Sì. Hai qualche preoccupazione in più invece sul fatto, qualcuno ieri lo diceva anche da Montpellier, cioè questo stacco di 9 giorni tra le due partite che contano, perché in mezzo c'è una specie di amichevole, che invece può fare l'effetto contrario, cioè in un certo senso può spegnere quella scintilla. È un rischio concreto o no? Cioè, ad esempio, ti piace l'idea di Conte di cambiare 9 undicesimi di nazionale, se sarà così? Allora, ci avessero detto che dopo 2 partite eravamo qualificati e potevamo cambiarli tutti per farli riposare, avremmo detto tutti di sì. E quindi sì, io do l'opportunità a tutti di giocare, di mettersi in mostra e di sentirsi parte integrante del gruppo, e se dovessero arrivare al traguardo tutti si sentono partecipi. Era successo un po' anche il mondiale del 2006, no? Tra squalifiche, infortuni, alla fine hanno giocato tutti, sì. E quindi è importante tenere tutti sulla corda e motivarli, e così sarebbero tutti motivati. Quindi per me viene tutto alla perfezione, anche questi 9 cambi ci stanno. Sì, e questi 9 giorni, questi 9 giorni, zio, perché tu sei calato più volte nel clima di queste competizioni, sei lì, sono una specie di playoff, sei lì e friggi. Non sono tanti 9 giorni per quelli che sono i titolari? Sì, però da come lavora Conte, con l'intensità che riesce sempre a dare agli allenamenti e come li tiene sulla corda, secondo me ci può anche stare. E poi io dico sempre questo europeo dobbiamo vincere con una tenuta mentale incredibile che ha avuto, io parlo soprattutto della linea difensiva, no? Che sono il nostro punto di forza, più il portiere, che hanno avuto anche nella rincorsa in campionato. Se questi ragazzi mantengono questa tenuta mentale per questo mese qua, il mese di giugno, l'Italia allora può fare strada. Hai sentito, Pier, cosa ha detto lo zio? Questi europei dobbiamo vincerli. Ma io sono veramente proprio così, no, gli è sfuggita, no, ti è sfuggita. No, ma io con lo zio sono anche a cena, insomma, le volte in cui capita di trovarsi sono clamorosamente sempre d'accordo. Lo so che è quasi banale, però è vero, cioè, secondo me chiaramente 9 giorni di teorica possono essere un problema, però mi fido di Conte e della sua capacità di motivare la squadra. Certamente i cambi sono un'opportunità, perché oltretutto perché noi abbiamo delle gerarchie che, difesa a parte, sono gerarchie molto, molto leggere, nel senso che non è che ci sia una differenza clamorosa fra Pellè e Immobile dal punto di vista tecnico, piuttosto che fra Eder ed El Shaarawy o Insigne. Sono tutti giocatori grosso modo sullo stesso livello, e quindi secondo me è importantissimo che ci sia questa possibilità. E sul fatto che dobbiamo vincerli, certo dobbiamo vincerli, siamo lì per partecipare. No, io volevo fare 2 domande da allenatore invece a Beppe Bergomi, sì. Che sono queste. La prima, mi spieghi se è un caso o no questa crisi dei grandi totem dell'attacco, da Ibrahimovic che non ha mai tirato in porta, praticamente non ha mai toccato pallone in queste europee, Ronaldo non ha ancora segnato, posso aggiungerci Lewandowski, posso aggiungerci Keane, ce ne sono Müller, ce ne sono molti di attaccanti che non hanno ancora visto la porta e che non hanno neanche giocato bene, ad esempio Ibrahimovic è irriconoscibile. Ma sempre quanto riguarda Ibra, paga anche come si sta comportando la propria nazionale, no? Che la partita contro l'Irlanda non l'ha giocata per 50 minuti, la Svezia veramente ha fatto male. Poi lui è arrivato alla conclusione 4 volte, non ha mai trovato la porta, però ha cercato sempre di essere pericoloso. E tu lo avverti sempre la sua pericolosità, anche se non fa molto, perché anche contro la nostra difesa ha fatto poco, però era il pericolo numero 1, prendeva la palla lui, era subito raddoppiato è una Svizzera che ha pensato più a fare una fase difensiva, diventa difficile poi aiutare anche Ibrahimovic. Per quanto riguarda Ronaldo, insomma le occasioni anche lui se le create. Il Portogallo è una squadra particolare, non, anche lì insomma fa un calcio che a me anche non dispiace, però non aiuta tantissimo lui. Non voglio dare degli alibi, perché poi insomma sono giocatori che basta poco per sbloccarsi, tutto lì. Soltanto per capire se questa crisi degli attaccanti fosse casuale o meno, così come mi domando se sia casuale o meno, e a me colpisce molto questo enorme numero di reti negli ultimi 5 minuti. Ormai non sarà più zona Cesarini, ma sarà zona Euro 2016. Ma questo è interessante, sicuramente capire perché si arriva a questo, perché insomma c'è molto equilibrio, insomma, soprattutto nella prima fase, trovare una partita che aveva due gol di differenza era sempre molto difficile. E alla fine, quando tu reggi e se mentalmente non riesci a tenere contro una squadra più forte, nel finale è lì diventa la fase difensiva. Io, essendo stato difensore, la fase difensiva è importante, saper reggere nei minuti finali quando comincia ad abbassarti e passa il tempo. E tante volte non hai quella tenuta, allora vai a subire il gol o per una prodezza avversaria, mi viene in mente il gol di Payet, o perché c'è una disattenzione. A quel punto non sei riuscito a portare in porto il risultato. Certo. Pardo, ultima domanda per te. Tipo Francia Albania, chi la gerarchia delle possibili rivali degli ottavi? Spagna, Croazia, Repubblica Ceca. È quasi banale guarda, dirlo, no? Pier, tu lo sai che quando poi ci troviamo prima delle partite o nei giorni prima si parla, ma chi è meglio, chi non è. Tutti no, adesso è la Spagna. Io ho detto la Spagna lasciamola stare il più possibile. Anche la Croazia può essere un avversario complicato per noi, perché sono squadre che palleggiano bene e palleggiano in maniera diversa rispetto sia al Belgio che alla Svezia, perché è un palleggio che non è fine a se stesso, ma che viene per farti male, tutte e due le squadre. E noi dovremmo essere, affrontando queste squadre, ancora più bravi. Quindi saranno avversari, secondo me, difficili. Allora a questo punto devo sperare nella Repubblica Ceca, perché mi sembra l'avversario più facile per l'Italia. Quello che facciamo tutti. Grazie, zio. Grazie. Buon viaggio di ritorno in Francia. Un abbraccio. Ci fermiamo per il traffico. Torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. 349 238 6666 per i vostri testi, SMS, WhatsApp, eccetera. A dopo. Tutti convocati. Convocati. Prima di Alessandro e Massimo, lo chiedo a Pardo e a Capuano, ma secondo voi la nostra è la miglior difesa dell'europeo? È la miglior difesa d'Europa? Secondo me la risposta è sì. Secondo voi? Beh, siamo in corsa sicuramente. Siamo in corsa. Quindi se sia la migliore adesso non trovo a dire, ma insomma siamo sul podio sicuramente ed è certamente il reparto migliore che abbiamo. Sì. Ma guarda, intanto partiamo da un dato statistico. Abbiamo preso 0 gol e come noi soltanto Germania, Polonia e Spagna. Però la Germania un po' di difficoltà le ha avute in difesa, si è anche salvata un po' per il rotto della cuffia, ad esempio nella parità con la Polonia, è stata fortunata. Un grande portiere la Spagna, come l'Italia, ecco, non lo so, secondo me noi siamo la miglior difesa di questo europeo, non so se siamo la miglior difesa d'Europa, ma in questi primi 10 giorni mi sembra che la qualità della nostra difesa sia assolutamente superiore, anche perché se noi siamo la squadra che corre di più, questo vorrà dire qualcosa anche in fase di protezione. Quindi non limitiamoci a guardare i tre nomi della difesa o i due centrali della Spagna. Abbiamo un sistema costruito anche per proteggerla, quella fase difensiva, e quella è la cosa che oggi funziona sicuramente bene. Assolutamente, poi non dimentichiamo anche che questo blocco gioca insieme tutti i giorni, e questo è estremamente importante perché il linguaggio del corpo è familiare a questi giocatori. Lo dicevo l'altro giorno, lo ripeto, parlate con qualunque grande difensore, compreso lo zio Bergomi, quando giochi insieme tutti i giorni conosci perfettamente quali siano le reazioni dei tuoi compagni a determinate situazioni di pericolo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo riprendere il discorso sull'entusiasmo che c'è per questi mondiali europei, ancora sto pensando ai mondiali. Da romano sicuramente Conte non mi entusiasmava. Io sono rimasto con l'Italia al 2006 e non mi... un termine momentavo così tanto per l'Italia da tanto tempo. Secondo me va bene che ci sia questo entusiasmo delle persone, la squadra è forte, visto dei calci dritti che non vedevo davvero da un'eternità davanti la porta, e io da italiano mi sono di nuovo fomentato per l'Italia, quindi secondo me è una squadra che va sostenuta al meglio e che probabilmente potrà vincere questo europeo. Io è in corsa, sono di questo avviso. È in corsa, come dicevamo prima, non siamo lì per partecipare. Un po' presto, però. Molto presto, però sai, queste due vittorie hanno acceso gli entusiasmi. D'altra parte non è che ci capiti poi ad ogni edizione dei mondiali o degli europei di passare il turno dopo due partite, di solito ne abbiamo parlato, no? Siamo lì appesi a un filo sottilissimo guardando cosa succede sull'altro campo, eccetera eccetera, qualche volta ci dice bene, qualche volta ci dice male, però siamo sempre lì a soffrire nell'ultima gara. Invece adesso siamo passati grosso modo in carrozza. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione proprio rispetto a questo eccesso di entusiasmo, no? Lei diceva, ma non ci sarà troppo eccesso di entusiasmo, e tutto sommato rischio di essere appunto una voce un po' leggermente fuori dal coro da quello che mi sembra di capire avendovi ascoltato in questi giorni. Io credo che i campionati europei abbiano stancato moltissimo i calciatori che sono arrivati a fare questo europeo. Io di bel calcio in questo europeo ne ho visto pochino, per cui capisco anche poi l'entusiasmo per la nazionale, però tutto sommato credo sia anche onesto per chi ama questo sport dire che la nazionale non è che abbia giocato chissà come, cioè in particolar modo la prima partita, forse anche con la solita adrenalina che cacciamo negli appuntamenti importanti, e anche con una prestazione del Belgio un po' sottotono, con i calciatori belgi sono forti nell'uno contro uno, ma anche presuntuosi, come diceva lo zio, hanno un palleggio spesso un po' fine a se stesso, ma sa cosa? Ecco, che quindi alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche una bella figura con la Svezia, francamente mi aspettavo sinceramente qualcosa di meglio. Ce l'abbiamo fatta a vincere Coeder con un'iniziativa isolata, palla spizzata, bel dribbling a seguire, palla all'angoletto un po' a giro, bellissimo, bella operazione di un singolo calciatore che ha fatto una bella cosa e nelle corde di Eder, però tutto sommato non fossimo riusciti, Zaza fosse arrivata la palla leggermente più alta ma fosse riuscita a spizzare in quel modo a seguire, noi staremo parlando di un deludente 0-0 dove non avevamo fatto più risposta. Se il colpo di testa di Parolo fosse andato 5 centimetri sotto, avremmo segnato 5 minuti prima. Sì, però la produzione offensiva è stata veramente è stata modesta. Ma io non lo dico per io lo sapete, sono del partito degli ottimisti e lo sono da tempi non sospetti, dal momento in cui sembrava veramente che andassimo lì a farci umiliare da tutti. Ero ottimista prima e lo rimango ottimista, però credo che l'ascoltatore abbia ragione, cioè è nazionale, noi siamo solidi, contro la Svezia non abbiamo praticamente concesso palle gol, contro il Belgio pure ne abbiamo concesse pochissime, però poi non siamo neanche una squadra capace di dominare quel largo contro nessuno, e non dominiamo con la Svezia, probabilmente non lo faremo nemmeno contro l'Irlanda nella terza partita del girone. Abbiamo bisogno del massimo della concentrazione, della tenuta fisica e mentale, ma da questo punto di vista sono ottimista. Il problema, sì, Pierre, non è l'eccesso di entusiasmo, cioè il problema è se c'è qualcuno, ma io credo che questa cosa non accade a Conte, non accade a nessuno a Montpellier, che si sta mettendo in testa che questa nazionale possa vincere l'europeo, perché allora poi ogni cosa che succede può essere innescare l'effetto boomerang, ma anche già a partire con la partita con l'Irlanda, perché è vero che tu vai con l'Italia 2, però è anche vero che l'aspettativa non è quella di fare una brutta partita, perché potrebbe essere anche certo, quello. È importante poi arrivare con l'abbrivio giusto. Bisogna arrivarci con l'abbrivio giusto. Allora, secondo me, se ci si mette in testa che noi non lo vinceremo questo europeo, l'entusiasmo non è troppo, semmai è troppo poco, perché fa parte di quella benzina che ci serve poi per correre più di tutti gli altri, per avere motivazioni, per essere organizzati e per provare a crederci. E aggiungo una cosa, Pier, io so che voi la pensate diversamente: una nazionale che pensa di vincere l'europeo, due calcoli sul tabellone della seconda fase così sbilanciato le avrebbe fatti. Evidentemente Conte oggi aveva in testa che non esistevano margini per fare quei calcoli, perché l'Italia è lì sul filo. Sì, sono d'accordo. Detto questo, insomma, io a un certo punto della partita contro la Svezia, c'era Cruciani con le tabelle, sì, un po' speravo quasi che finisse in pareggio, perché quello ci avrebbe dato probabilmente più margini, diciamo, di manovra in questa terza e ultima partita del girone. Detto questo, poi quando era segnato il risultato, e la stessa cosa mi pare l'abbiamo fatto i giocatori, cioè è molto difficile andare contro l'istinto, sì, e soprattutto quello che diceva lo zio è vero, cioè questa squadra aveva maledetto bisogno di ritrovare entusiasmo, di accendere la passione, e ci sta riuscendo. È chiaro che il prezzo potrebbe essere un cammino un pochino più complicato, non è un dettaglio, perché la Spagna, secondo me, speriamo che non perda contro la Croazia, la Spagna è un'avversaria vera, è forte, per vincere quel girone è fondamentale. La Spagna è destinata ad arrivare alla almeno alla semifinale. No, ma poi a parte questo, il discorso che faceva l'ascoltatore sul fatto che l'Italia non gioca bene. Primo, secondo me, questa squadra trasmette entusiasmo proprio per questo spirito un po' proletario, un po' operaio che si porta addosso e che Conte li ha cucito addosso, vista la quota talento che non è eccezionale. Però possiamo dire che a livello di nazionale è difficile trovare qualcuno che giochi bene, Spagna a parte, ma quello è un discorso che va per conto suo. Però io credo che il dato sia che non è ancora uscita la nazionale dominante. No, cioè, ma non si è ancora, sai, Giovanni, vista quella che tu identifichi. Probabilmente non ci sarà neanche una nazionale. Aspettiamo la Germania. Aspettiamo la Germania. Secondo me la Francia l'ha fotografata bene De Biasi. È una nazionale con troppi limiti per essere dominante. Poi magari può capitare qualsiasi cosa da qui al 10 luglio. Soprattutto quando ha detto è una squadra che mette l'io davanti a noi. Io credo che ci sia una squadra che, se non combina disastri e ha due risultati su tre, è destinata ad avere un'autostrada fino alla finale, ed è la Spagna, proprio per questo tabellone tutto strano così come è stato costruito. Mi aspetto la Germania, che io continuo a pensare sia un diesel, e quindi non mi stupisce tanto che non sia partita benissimo. Adesso vediamo se vince il girone. Intanto la Spagna sta mettendo in mostra l'unico attaccante che sta facendo bene in questo europeo, e cioè Alvaro Morata, che sta cambiando maglietta, Pardo. Sì, sì, ma anche qui la sensazione, ne avevamo anche parlato un po' di giorni fa, era che Morata facesse un grande europeo. Morata ha vissuto una stagione così, è stato secondo me un po' impantanato, grazie al grande mestiere di un giocatore come Mandžukić, che gli ha fregato il posto nella prima parte della stagione, meritatamente secondo me. Però Morata ha dei colpi straordinari, ha dei colpi eccelsi, e arriva paradossalmente abbastanza fresco a questo europeo, quindi con una buona condizione psicologica e con un'ottima condizione fisica, quindi non mi stupisce. Un'ultima cosa, facciamo pronosticone sulle partite di stasera? Vai! Viva! È un girone incasinatissimo il gruppo V, cioè l'Inghilterra 4 punti, il Galles e la Slovacchia 3, la Russia a un punto, giocano alle 21 Slovacchia, Inghilterra e Russia, Galles, con grandi timori di ordine pubblico. Secondo me, lo dico sottovoce o per inciso, tra parentesi, faranno di tutto per spedire a casa i russi, cioè a nessuno dispiacerebbe poi tanto vederli prendere l'aereo. Come finiscono queste due partite al volo? Pardo. Russia-Galles pareggio, l'Inghilterra non può, l'Inghilterra è ingiocabile, lo sai. Due pareggi, perché mandano avanti tutte e tre. L'Inghilterra con vince, due pareggi vanno avanti vince. Tre squadre su quattro vanno avanti: Inghilterra prima, Galles secondo, Slovacchia terza, e la Russia a casa, con buona pace di tutti. Quindi due pareggi, va bene per tutti? Ok, aggiorniamo. Per me l'Inghilterra vince, però vabbè, vince? Forse la passione, forse il cuore, non lo so. sentiamo domani, Pier. Vince 4-0, così De Biasi cavalca. Esatto. Ciao Pier, grazie, ci sentiamo domani. Ciao. Noi stiamo qui invece, io e Capuano, ci sentiamo dopo il GR. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire, arieccici. Nation. Giro veloce, gara sempre in testa. Nico Rosberg vince il Gran Premio d'Europa. Quinta vittoria stagionale per Nico Rosberg, che allunga in classifica mondiale. Da dietro arriva una Ferrari che ha fatto comunque una grande gara, chiudendo in seconda posizione. Tra poco eccolo che arriva Sebastian Vettel, secondo, si rilancia anche lui nel mondiale avvicinandosi a Lewis Hamilton. Bel giorno definitivamente, sì, specialmente anche il feeling lì fuori, perché ero uno con la mia macchina e potevo spingere senza mai avere il feeling di fare un errore o qualcosa, eh? E questo era stupendo, e allora no, contento di vincere, certo, spettacolo e bel risultato, bella gara qua a Baku, il circuito pesantuccio veramente, ci sono qualche curva che è meglio che non fai errore, perché sennò ti trovi col muro davanti, poi è super veloce anche di rettilineo e no, bello. Arrivando, guarda. Noi non ha sentito uno dei piloti reclamare per la vettura, oggi la macchina è andata avanti, ci faccio lavorare, la stagione è ancora aperta e non abbiamo chiuso. Allora, già che siamo in tema di voce, abbiamo sentito Rosberg e Marchionne al volo, Montpellier, una battuta in diretta, sta parlando De Rossi in questo momento. Palmarès, no? Parla per una stella, e quando dicono il gol di Messi, se l'avesse fatto Messi l'avrebbero fatto vedere in tutto il mondo, è anche qualcosa di guadagnato, è un credito che Messi si è guadagnato, Messi o Ronaldo, questi qui insomma lo fanno, ne fanno 50 all'anno, mentre io, Eder, questi qui giocatori un po' meno blasonati ne facciamo una volta ogni tanto, se ne parla, ma quando lo fanno i vari Messi e Ronaldo è giusto che abbiano un credito alle spalle più ampio. Questo era Daniele Leo Turrini, buongiorno. Allora, io ho lasciato la sala di De Rossi per stare in compagnia di gente e tu mi fai sentire De Rossi, e allora, vabbè. Ti risparmio il lavoro, Leo. No, ma in precedenza voglio comunque segnalare che De Rossi ha fatto gli auguri al nuovo sindaco di Roma, la signora Raggi. Così ti do la completezza di informazione, poi ti suggerisco la domanda che dovresti farmi, caro Jay. Suggerisci? Fatti una domanda, date una risposta. No, dovresti chiedermi: è più facile che Vettel vinca il mondiale o che Conte vinca l'europeo? Forza, fammi questa domanda. Beh, mi sembra che la risposta sia scontata. È più facile che Vettel vinca il mondiale o che Conte vinca l'europeo? E come diceva Corrado Guzzanti nei panni di Pippo Kennedy, la seconda che hai detto, quello, hai capito? Perché l'europeo, almeno finora, una squadra paragonabile alla Mercedes sull'asfalto non l'abbiamo vista, perché il problema della Ferrari, che comunque ha fatto una bella gara lì a Baku, da come si erano messe le cose nelle prove. Senti, ma quella pista, lì, Leo Turrini, ma quella pista lì tra castelli, sì, palazzi, cioè come correre su un viottolo. Capuano l'altro giorno mi ha fatto vedere un video delle condizioni normali di quel posto, c'è il selciato, guarda, per terra, come a Pavia. Io stavo facendo una scopetta con Buffon, che siamo anziani e guardavamo la corsa, abbiamo detto sicuramente quando passa Raikkonen cala il ponte levatoio dal castello e lo spiazza, capito? Allora, avevamo persino questo timore. Ma cosa vuoi che ti dica? È come si sosteneva nella Roma, non della Raggi, ma di Catone, pecunia non olet, il denaro non ha odore, Eccleston dovunque gli facciano vedere i dollari va. Io non credo che il circuito di Baku entrerà nella storia della Formula 1 come Spa o Suzuka o Monza, ma questa è la globalizzazione, che dobbiamo fare? Abbiamo accontentare i clienti. Ma sì, vanno dove trovano i quattrini facili, hai capito? D'altronde tutti avevano detto dopo il sabato, lì il passaggio, il castello, un gran premio che ci saranno 18 safety car, sì. Se ne fosse vista una, il che ti fa venire un sospetto, caro Jay, che accanisce un effesso, ma sì, ma non solo, ma che ormai i piloti di Formula 1, siccome debbono risparmiare le gomme, hanno una quantità limitata di carburante, non possono fare il pieno, eccetera eccetera eccetera, ma guidano poi in realtà col freno a mano tirato, perché certo, nessuno tranne il nero al sabato. Ecco, vogliamo parlare del nero? Si è riaddormentato. Io ho letto una cosa che se Leo me la conferma mi lascia basito. Cioè? Perché lui ieri ha fatto tutto il casino, che non sapeva più rimappare il motore perché non ha letto il libretto delle istruzioni. Beh, sì, è una cosa che ha un fondamento. Ditemi che non è vero. No, allora, la prima è questa, che Hamilton è affetto dalla sindrome Ibra, no? Cioè ormai anche lui parla di sé in terza persona, dicendo Hamilton è una leggenda, queste cose. Poi vedi Ibra contro Bonucci, Barzagli e Chiellini, non l'ha mai vista. Questo è un problema di Hamilton, che ha una auto-ipervalutazione, eccesso di autostima. La faccenda delle istruzioni, c'è qualche cosa di vero, nel senso che tutti i piloti, non solo Hamilton o Rosberg, hanno la necessità di conoscere una serie di dispositivi che devono applicare dall'abitacolo, sposta una levetta, resetta in un modo, sistema questo, fa quell'altro. Ieri la Mercedes ha avuto lo stesso problema sulle due macchine. Rosberg sapeva esattamente cosa doveva schiacciare per fare ripartire nel modo giusto l'elettronica. Hamilton continuava a dire via radio all'ingegnere: dimmi come devo fare, no? Perché era andato in discoteca con Rihanna e non aveva studiato appunto il libretto delle istruzioni. Tant'è vero che l'ingegnere del muretto Mercedes gli ha dovuto rispondere: guarda, non ti posso aiutare perché è vietato dal regolamento. Non si può sempre soffrire in questa vita. Non aveva letto neanche tutto il regolamento. Fino all'anno scorso, le comunicazioni radio erano illimitate. Poi c'è stato chi ha detto: ma in questo modo veramente sono dei robottini teleguidati, adesso dal muretto ti possono dare solo le informazioni su questioni che riguardano la sicurezza, tipo guarda che uno ci è fermato due curve più in là, o c'è olio sulla pista, cose così. Diversamente ti devi arrangiare. E il povero Lewis, che vogliamo dire, non aveva fatto i compiti a casa e si è trovato in una situazione che non è stato in grado di risolvere, con ciò facendo una bella figura alla Ibra nei confronti di Rosberg. Sì, ma chi di noi non l'ha fatto, dai? Chi di noi non ha saltato la lezione per andare in discoteca con Rihanna? Ognuno di noi l'ha fatto. Voglio dire, Hamilton, tu sai come la penso, è un fuoriclasse naturale, l'ha dimostrato da quando è arrivato in Formula 1. Diciamo che insieme al genio c'è anche la sregolatezza. Lui non è il tipo che ti dà l'impressione di applicarsi metodicamente come uno degli azzurri di Conte, hai capito? Hamilton con Conte non giocherebbe mai, niente, ma neanche Pacchini in tribuna, non avrebbe mai convocato. No, mai. Noi qui invece siamo a Montpellier, abbiamo veramente questa banda di brutti, sporchi e cattivi, hai capito? L'Italia degli operai, l'Italia delle tute blu, cominciamo a far paura a tutti. Se Dio, cosa ha detto del Bosque, no? L'allenatore di spagnoli, se domani sera perde la Croazia e poi viene a Parigi a giocare contro gli azzurri, lui ha detto: per carità, anzi, por todos los diablos, no, l'Italia il più tardi possibile. È così. Sì, perché è vero che noi facciamo i conti sugli altri, attenzione, la Francia, la Croazia, la Spagna, la Germania, cioè, però non è che per gli altri affrontare questa banda di tute blu sia una passeggiata di salute. Sono preoccupati, poi è chiaro che se io e te ci mettiamo a guardare il primo tempo di Italia-Svezia, tu sai cosa ha fatto il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, no? Ha inserito la visione del primo tempo d'Italia-Svezia nel prontuario dei prodotti farmaceutici utilizzabili contro l'insonnia. Sì. Perché se tu guardi di nuovo quel primo tempo lì ti schianti, no? È stata una roba, c'era la gente in tribuna Tolosa che sbadigliava, delle scene, no? Però noi poi siamo una squadra tosta, hai capito? Il secondo tempo abbiamo provato a vincerla noi e bisogna fare un ringraziamento al nostro amico Roberto Mancini, che merita il premio doppio da parte della Federcalcio, perché ha fatto riposare Eder per 3 mesi. Adesso Eder corre scatenato, hai capito? Corre come una lippa. È pieno di energia, un po' come Kimi Raikkonen, che ieri è stato grande, nonostante quello che voi senz'altro direte, eccetera. Era davanti a Vettel, gli ha dato strada, ha preso una penalizzazione ingiusta per una striscia bianca, sennò sarebbe andato sul podio anche lui. Insomma, i piloti, la Ferrari ce li ha, quello che manca è la macchina, siamo sempre lì 20-25 secondi. Come ha detto il tavecchio della Ferrari, Sergione Marchionne, dobbiamo insomma rendere più veloce, più competitiva questa vettura. 800-24-00-24 per intervenire naturalmente. Leo, per chiudere, spiegami quella invece di Vettel che disubbidisce, che fa il disobbediente nei confronti dei box. Vieni qui che cambiamo le gomme. No, Lasciatemi in pista. No, beh, lì si è vista la grande sensibilità del manico del pilota. Io ricordo, ne abbiamo parlato tanto 6 anni fa, quando una sciagurata chiamata del box a Abu Dhabi costò ad Alonso il mondiale. E allora io, peraltro in solitudine, dissi: ma magari Schumi al posto di Fernando non sarebbe rientrato, avrebbe detto agli ingegneri che non gli sembrava la mossa adatta. Intendiamoci, è chiaro che il pilota ha meno informazioni di chi ha il muretto, non sa in quale condizione di traffico rientrerà una volta cambiate le gomme, eccetera eccetera eccetera. Vettel ha dimostrato una grandissima sensibilità, perché ha detto: ma guardate che le mie gomme funzionano ancora e quindi io preferisco restare fuori. E devo dire che qui si coglie proprio l'istinto del grande pilota, che ha anche il coraggio di rischiare, perché se poi la sua valutazione si rivela sbagliata, dopo in squadra ti fanno un mazzo tanto, ti dicono: ma noi abbiamo tutti i dati del computer, eccetera eccetera eccetera, devi fare quello che ti diciamo noi. Invece aveva ragione lui, e meno male, perché comunque il secondo posto l'ha portato a casa. Questa è la versione di Leo Turrini buonista, che ce la vuole dipingere e infiocchettare. Poi c'è quell'altra, che secondo me Vettel corre con un post-it sul volante di tutte le chiamate sbagliate del muretto Ferrari. Ah, ho capito. E allora, scusate, restiamo allora, così. Io non escludo che Vettel, alla luce ad esempio anche dell'esperienza canadese, adesso quando gli arriva un suggerimento, ha fatto la bella faccia di dire era tutto concordato, abbiamo fatto bene, però voglio dire, ci sta, adesso guardate che io mi rendo conto che è difficile da far comprendere, ma anche le persone che devono prendere una decisione lì al muretto, cioè sono come il calciatore che batte un rigore, una frazione di secondo, decidono veramente in 2-3 secondi, non è che hanno 10 minuti. Allora, senz'altro quest'anno, almeno in un paio di circostanze, le chiamate, come si dice in gergo, degli ingegneri Ferrari non sono state perfette, però da qui a farli passare per una manica di incompetenti, insomma, io lo trovo eccessivo, perché li conosco, è tutta gente che ha lavorato anche in altre squadre. Jock Lear era la Mercedes, ha vinto i mondiali, Rueda è un altro professionista molto stimato, insomma, non cediamo alla tentazione, facciamo tutte le buffate, sono tutti incapaci e allora Vettel si deve gestire da solo, perché non è esattamente così, No, questo è chiaro. Leo, grazie. Vai. Ma chi ha vinto a Scopa tra i Buffon? Ha vinto lui, perché sai, Buffon c'è questa cosa che lo sai che non esce mai di porta, no? Lui sui cross avversari ormai sono anni che Buffon non esce. Il ministro Padoan ha persino detto che metterà nella legge di stabilità una clausola che Gigi non paga l'IRPEF l'anno prossimo se esce sui cross dei croati, che probabilmente affronteremo i croati, no? Ma non lo so, perché io lo vedo un po' una tigre di marmo tra i pali. Ma speriamo in Chiellini, Basagli e Bonucci. Ecco qua. Grazie Leo, ti abbraccio ciao, forte. Buon lavoro. Ciao, buon e anche a te. Leo Turrini da Montpellier, poliedrico, ai massimi livelli. Igor da Milano e poi finale NBA. Sì, ciao, complimenti. Ciao. E volevo fare una domanda veloce. Sulla Formula 1, io sono un appassionato, ho sempre seguito la Formula 1 e tanti anni che la seguo, ma ieri è proprio stato, secondo me, un circuito dove, allora facciamo una cosa, facciamo un circuito di 14 km di rettilineo, curva a destra, altri 14 km di rettilineo, curva a destra, e allora vediamo i sorpassi, ma non è la Formula 1, vanno dove c'è tanto denaro, facile, subito. E ieri ho sentito l'intervista di Ekerson prima della gara, che diceva che comunque Monza, se non si muove, ma io non capisco cosa vuol dire cosa muoversi, perché io vado quasi tutti gli anni a Monza e ci sono quasi muoversi vuol dire, cacciare il grano. Cacciare il grano. 50.000 persone in un weekend, più muoversi di così non so cosa voglia dire. Non è tanto il botteghino che conta. Però lui dice che se non ci si muove possiamo dire ciao al Gran Premio di Monza. E io da appassionato dico che secondo me possiamo anche dire ciao. Per me ciao alla Formula 1. La Formula 1 va dove ci sono i soldi, va a correre in piste nuove nel deserto, va a correre in mezzo ai viottoli di Baku. La Formula 1 è questa. E muoversi vuol dire che gli organizzatori, che tutto quello che sta intorno, deve tirare fuori una vagonata di denaro, se no vanno da un'altra parte, vanno a correre dove c'è il denaro. Allora andiamo a raccontarvi quello che è successo tra la notte fonda e l'alba. della pallacanestro NBA, il numero 7 rappresenta la perfezione e quando arriva in una serie di finale rappresenta un godimento, un godimento. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Sulle gambe a lavorare contro Irving, step back da tre punti. Bobo Bang! Mostruosa tripla di Kyrie Irving. Rimbalzo lungo per Stephen Curry che attacca il ferro. Arriva LeBron James e dice: ma non se ne parla neanche. Finisce i Cleveland Cavaliers, sono campioni NBA, i Cleveland Cavaliers sono campioni NBA per il 2016, LeBron James MVP. Beh ragazzi, ne valeva la pena di tirare mattina. Potevamo mettere Giorgio Luca, bravissimo, bella scelta, ma lui è giovane. Io avrei messo anche It's a Kind of Magic dei Queen. Ciao Simone Sandri. Buon pomeriggio Carlo. L'avevamo in qualche modo pronosticata. Qualcuno dice adesso questo 93-89 gara 7 che ha segnato il titolo a Cleveland contro Golden State, che rimane con un pugno di mosche del record in regular season. Qualcuno dice una delle gare più belle di sempre, forse esagerato, non dal punto di vista estetico è stata bella, ma dal punto di vista dell'intensità, della passione, dello sfinimento, vorrei dirti. Sì, assolutamente, l'ho vista anch'io così. È stata una partita, diciamo, a cardiopalma, per usare una frase fatta. È stata bella perché è stata intensa, è stata ovviamente, si è decisa alla fine, spettacolare perché sono state delle giocate che verranno ricordate per anni, sì. Tanto fatto di LeBron, di Iguodala sicuramente, penso sia forse la giocata che definisce un po' queste finals, la tripla di Irving che ha poi deciso la partita. È stata una partita però veramente dove è mancato anche l'MVP, dove doveva fare la differenza, l'MVP, due volte MVP doveva fare la differenza e alla fine non l'ha fatta. La differenza la faccia al carattere di LeBron e un eccellente Kyle Irving che alla fine ha fatto questo canestro da tre, dove non segnava nessuno, erano 89 pari, non segnava più nessuno, alla fine ha fatto questa dritta in faccia a Curry pazzesca e il titolo è andato a Cleveland, che festeggia così il suo primo titolo nello sport, ne ha tirato per la prima volta negli ultimi 53 anni in maniera assolutamente straordinaria. Sì, terzo anello per LeBron, e tu sai, Giovanni Capuano, che tra poco ti ritroverai il poster di quella stoppata nella stanza dei tuoi bimbi. No, ma mi piacerebbe sapere dove lo inseriamo nella galleria, visto che è stata definita la Gioconda del basket professionistico americano. Dove la inseriamo? Insieme a tanti altri gesti singoli, gesti singoli. Sì, beh, sai, insieme alla schiacciata ad alcune delle schiacciate di Michael Jordan, a quel canestro rovesciato di MJ, a quel canestro nella serie contro Cleveland quando sventoli pugni al cielo, sai, sono quelle immagini iconiche che rimangono lì, no Simone? Sì, sono d'accordo, è un'immagine straordinaria, fa tanto LeBron perché è una di quelle stoppate che lui ha spesso per il suo atletismo spaziale e il suo grandissimo timing. Quella, forse io l'immagine che ho colpita la memoria è quella di Jordan, il movimento su Russell contro Utah ovviamente, con il quale poi Jordan ha chiuso la sua carriera, e credo che quella probabilmente sia la prima in assoluto. Detto questo, questa ci va vicino per il significato che ha, ma anche per la città, per il fatto che LeBron è riuscito a vincere nella sua Cleveland, cosa che non passa assolutamente in secondo piano. Abbiamo visto poi l'emozione di LeBron nel post partita, sicuramente questa giocata, ma tutte le finali giocate, tutte queste finals giocate da LeBron, veramente tutte queste finals sono state straordinarie. Nel momento più difficile della serie, quando sembrava tutto compromesso, quando un po' tutti ormai davano per scontata la vittoria di Golden State, e alla fine LeBron ha cambiato marcia, veramente ha fatto due partite straordinarie in gara 5, gara 6, e poi ha condotto da grande leader la sua squadra alla vittoria sul campo più difficile, dentro il parquet più difficile del NBA, che è quello dei Warriors. I Warriors, di là della verità, è il momento giusto, è il momento di esaltare LeBron. È anche vero, bisogna guardare anche l'altra parte. I Warriors sono un po' mangiato questa sera, hanno mostrato un pochino un pizzico di arroganza, soprattutto in gara 6, secondo me. hanno delle responsabilità anche loro. Comunque la storia deve essere il titolo di LeBron, il titolo di Cleveland. Sì, è così, è così. E io ti dico anche che secondo me Golden State ha pagato un prezzo piuttosto alto alla rincorsa al record delle 73 vittorie in regular season, perché non dirmi che Steph Curry, che ha giocato questi playoff, era lo Steph Curry che conosciamo, ma anche Klay Thompson, anche il cast di supporto, mi è sembrato una squadra spremuta, quasi svuotata dalla caccia a quel record. Io su, è uno dei punti su cui discute. Io sono del partito opposto, io non sono tanto d'accordo. Secondo me questi playoff hanno dimostrato che non è tanto così. È vero che Curry non era lo stesso, ma per il problema che ha avuto il ginocchio, ed è stato un infortunio assolutamente casuale, perché scivolare sul cuore di un giocatore e procurarsi una distorsione al ginocchio è una cosa. Klay Thompson ha fatto una serie straordinaria contro Oklahoma City. Loro sono riusciti a recuperare una serie incredibile, difficilissima, contro Oklahoma City, per cui di energie ne erano ancora. Secondo me è stata anche un po' sfortunata Golden State in un certo punto di queste finals, perché insieme alla stupidaggine di Green, che è costata questa squalifica molto contestata, molto discussa in gara 5, poi è arrivato anche l'infortunio di Vogut e l'infortunio di Iguodala. Io non vedo una grande correlazione tra le energie spese per arrivare a questo record e il fatto che comunque alla fine hanno perso una serie che avevano già vinto. Nessuno era mai risalito dalla fossa dell'1-3. Simone, ci sentiamo presto, grazie. Grazie mille, saluto. Grazie a tutti, grazie a Simone Sandri. Giovanni, grazie della compagnia. Grazie a te. Torna presto quando vuoi, altrimenti tanto nel weekend ci siamo sempre, la domenica. Tutti convocati weekend, non va in vacanza mai. Luglio, agosto e poi settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Ciao a tutti, grazie Giorgio De Luca, grazie a Gianmarco Ferronato e a Federico Binda. Ci sentiamo domani. Che spettacolo, da brividi.